bravissimo. Anche questo è bravo, eh. Guarda, l'unico danno che mi ha fatto nel portone d'ingresso. Ma perché? È colpa loro, perché l'hanno abituato a mare uscire nelle scale e poi con le unghie ha fatto un po' di danno lì nel portone, perché magari vorrebbe uscire, capito? Ecco, sì. Mi era abituato a uscire, ha trovato la porta chiusa e stava cercando di aprirla e... No, il mio quando era piccolino aveva l'abitudine di attaccarsi alle tette, però io l'ho sgridato, basta sgridarlo col dito puntato senza picchiarlo. Perché io ho la cassetta, prima di prendermi il gatto mi sono studiato tutto qua. Oh, questo guarda, non è mai sporcato, giusto qualche volta magari che ha riveduto qualcosa, si è mangiato il pelo. Però da piccolino guarda, neanche a malapena riusciva a saltare il bordo dalla cassetta dalla sabbiera, però no, ha imparato subito. Finalmente questo gatto è arrivato dalla zona di Cagliari, come l'ha visto mia moglie, l'ha visto su internet, subito, si è innamorata subito e ce l'hanno portato, dai. Che gatto è? E come gatto non lo so, quei colori, quelli rossi, dai, gialli, rossi, beh, molto peloso, c'è una cosa che chiamano una volpe, infatti non è facile a me che perde pelo, bisogna stare a fare un giro di aspirapolvere per a lui, e c'è una criniera che sembra un leone, adesso è diventato proprio il leone di casa. Ma un persiano? No, tipo quelli tigrati, però una tigre sembra, anche la faccia sembra una tigre in faccia. No, io c'avevo il persiano, culo, bello. Era campione italiano di mostre e roba del genere. La madre era un persiano e non era pura la madre, era un persiano incrociato con un europeo, però c'aveva il 90% del persiano. Non lo so. Questa razza rossa mi ha detto che è un po' più, c'ha un carattere un po' difficile, infatti già è così. Non gli piacciono molto le coccole, a meno che non venga lui, la mattina presto come se è un ruffiano che non vuole da mangiare, allora viene magari e cerca le coccole. Se no, diversamente, anzi, quando vai a toccarlo, dopo un po' si infastidisce. Anche il mio in grembo non ci stava, stava un pochino e poi si saltava, le faceva così. Non era di quelli... Sì, lo sai, la coccolone quando torna a violetta se andava sotto le coperte e andava in mezzo alle gambe, ti scaldava, era troppo bello. Che gli piace filarsi sotto i tappeti, poi gli piacciono le scatole di cartone, a volte fai la spesa, svuoti le scatole, lui come le mette, sennò si sacca dentro subito. Anche il mio faceva così, aspettava che svuotassi il latte e se entrava dentro la scatola. Sono tutti uguali, sono fatti a stampo. Poi del resto gli piace affacciarsi dalla finestra e controllare cosa succede fuori. No, io fra stavo lottando l'altro giorno, se mi vedevi sembravo cazzo fantù. Praticamente stavo pure dalle gabbie degli uccelli, dei canarini. Mi hanno telefonato, sono andato a rispondere al telefono e mi sono dimenticato la gabbia aperta. C'era la finestra aperta, sono scappati tre canarini. Tutti e tre di razza, cioè io ho solo razze, capito? C'ho diversi tipi di razze. Sono scappati dalla finestra tutti e tre. Allora cosa ho fatto? Ho preso il coppo che usavo per pesca, quello che è grande, che usavo per le orate, e sono sceso giù e andavo da un albero all'altro. Guarda, uno l'ho beccato quasi subito perché dopo dell'albero si è calato sul cofano della macchina, gli ho buttato il coppo e l'ho preso. Poi l'altro non riuscivo a trovarlo, poi dopo pranzo ho visto una facciata alla finestra e ho visto questo cielo che volava tutto come vuole il canarino, entrate su qui. Sono sceso giù con il taser, mi ho portato subito al cancello ed era sul cancello dell'entrata proprio lì. Sono andato piano piano, mi ha fatto avvicinare, quando sono andato per prendere, se l'è volato. Ed è andato nel cortile di quelli a fianco. Prima è andato sul ramo dell'albero, in alto, poi è sceso giù piano piano, poi è andato sulla rete che circonda un bombolone del gas. Sono entrato dentro, perfetto, non ce l'avevo in mano e mi è scappato dalla mano. Cazzo, guarda. Poi è saltato di nuovo, è entrato di nuovo nel cortile nostro. indovina dove c'è calato di nuovo, anche quello sulla macchina mia. Una cosa allucinante, si è messo sul tettuccio invece che sul coppa, lo sono andato e l'ho preso, il terzo non sono riuscito a trovare. Beh vabbè, sei andato bene, dai, due su tre, insomma. Era successa una cosa anche a mio cognato, però con, come si chiama? Il prezzo parabili. Pagallini, dai. Non so, forse i bambini gli hanno aperto la gabbia e sono volati, però non l'hanno più trovato. Chi è? No, abbiamo parlato assieme? Forse sì. Ho detto, dice parabili, c'è chi dice che parla, però io su internet ho fatto la domanda e mi ha risposto così, aspetta che te lo faccio sentire. No, non l'hai sentito. In base al sito Idee Green, non parlano i pappagalli inseparabili, sono socievoli ma tra loro non con gli esseri umani. Hai sentito? Sì, sì. Però il cammino dice che loro ce l'avevano e parlavano. Ma non che era mascherato, come una barzelletta, ti ricordi del pappagallo che voleva l'amico, il tipo che è andato in Brasile, invece gli ha portato una civetta, però gliel'ha verniciata bene. No, non l'ho sentito. Praticamente questo tipo ha saputo che l'amico andava in Brasile, ha detto porca un pappagallo, questo parte, al ritorno si è dimenticato, cosa ha fatto? È entrato in un negozio lì a Roma vicino all'aeroporto, ha preso una civetta e gli ha dato un paio di colori, no, quelli vivaci, e gliel'ha portata, capito? Non fa veda, ma proprio attento. Come va il pappagallo? E dice, a sta veda ancora non fa veda, ma attento, quando gli parlavo attento perché c'ha gli occhi grandi la civetta. Poi ascoltava bene le lezioni. Allucinante. A me piacciono molto il merlo indiano. E quello ce l'aveva mio zio in Sicilia. Un sacco di gente, lì ti fregava perché tu andavi a suonare il campanello, no? E lui da dentro, chi è? Capito? E quello diceva, chi è? Sono Roberto, però non apriva nessuno, suonava di nuovo, chi è? Incazzato pure. Invece a Portotorsi ce n'era uno, quando suonava il campanello diceva, posta! Devo essere che il postino, quando suonava, lui lo sentiva e diceva, posta, allora lo imitava, e poi imitava, quando aprivo lo sportello del furgone che ci volava un po', faceva, ma proprio uguale, ma com'è possibile se non ha aperto lo sportello? Io sapevo che faceva quel rumore, perché dovevo mettergli sempre un po' di olio, e me ne dimenticavo sempre. Beh, fatto sta che questo qui mi invitava, un giorno si è affacciato la panna e ha detto, mi questo disgraziato che la fa impazzire, lo vede, mi ha preso la gabbia con il merlindiano dentro. No, sono micidiali, sono. Mi ricordo qua, adesso non c'è più, sono andati via quegli inquilini, oppure è morto il pappagallo, il bal pappagallo, il merlindiano. Faceva rumore dell'allarme, pipi proprio, ma precisi. Lo so, ce n'era uno anche quando io prendevo il treno per andare a Porto Torres, lasciavo la macchina in una traversa di Viale Sicilia proprio lì. Praticamente c'era questo pappagallo che prima di mettere l'allarme me lo faceva lui. E cioè la padrona mi ha detto, guardi che è il merlindiano mio che ogni volta mi fa l'allarme. Anzi, c'è un bottino, l'ho premuto. Uguali lì. E magari è quello, visto che io abito lì, magari è quello lì. Io ti parlo di 15 anni fa, forse anche di più, 20. Allora, è una traversa dietro la parallela di via, che via è? Quasimodo, via Quasimodo. Sì, sì, allora è quello lì. È una strada che praticamente fa ad angolo. E lui era proprio di fronte all'angolo di quella strada lì, via Veronese. Esatto, sì, allora è lo stesso. Io mettevo la macchina lì perché prima la parcheggiavo alla stazione. Un giorno mi sono trovato la macchina senza tutti e tre per il cristallo, sia quelli di davanti che quelli dietro, con braccetto e tutto me li hanno rubati. Ecco perché non trovavo parcheggio io. No, sto scherzando. Anche a me qualche volta hanno fatto dei danni qua, anche qui, quindi non vuol dire la zona. E allora la parcheggiavo sempre lì dietro, capito? La macchina era nuova, avevo la Uno Fire allora, nuova di zecca, comprata nuova. E mi ero dispiaciuto, cavolo, mi hanno rubato 7 centesimi di cristallo, una volta mi hanno rotto lo specchietto, e allora ho detto basta. non lo metto più vicino alla tastiera, me lo faccio un pezzo a piedi e buonanotte, facevo così, la parcheggiavo lì e poi mi facevo il pezzo a piedi, un bel pezzo, vabbè, ma mi serviva anche per camminare. Poi è arrivato a Portatore, dalla stazione uscita alla voce, sono stati 300-400 metri. Sì, ma prima non c'erano problemi di parcheggio, guarda, tutto vuoto, mi ricordo quando sono arrivato qua, 20, quasi 30 anni fa. Macchine non ce n'erano, oggi invece è difficile trovare parcheggio, difficile, insomma, difficile trovare magari vicino sotto casa, dai, poi si disposti appena appena lo trovi. Lo so, io, tu la signora Nina l'hai conosciuta? Non mi dice niente, chi è? Quella che aveva il negozio del pane, quell'alimentare che c'era dove adesso c'è, cosa c'è, la pizzeria, qualcosa del genere. No, non c'è più la pizzeria, quella di fronte alla stazione, vicino al bar di Gianni, adesso c'è un'agenzia funebre. Sì, me la ricordo, ma non di faccia però, mi ricordo il negozietto e basta. E io andavo da piccolo lì a comprare, prima era nella discesa il negozio, lui lavorava per Nurtis, quello del pane. Era uno dei più famosi a Sassari, Nurtis prima. No, no, non me lo ricordo questo Nurkis, no. Mi ricordo malapena questo negozietto, ma da 30 anni fa lo stesso, più o meno. Il negozio era proprio nella discesa, quasi alla fine, scendendo sulla sinistra, rimaneva. Poi praticamente ci aveva aperto il negozio lì, ci aveva aperto il negozio più giù, e a fianco c'era Ruzzito, il fabbro. Il fabbro o il meccanico? No, fabbro. Uno dei fratelli era fabbro e l'altro era meccanico. Mi ricordo il meccanico, che adesso è in viale Portatore, dai, un meccanico alfa, diciamo, dai. Sì, Franco, Franco Luzzi. Praticamente prima ce l'avevano l'officina, non ce l'avevano lì, non ce l'avevano visto dove c'è la discesa per scendere giù, per scendere in Viale Sicilia, quella discesa là che c'è, dove c'è lo specchio lì. Ce l'avevano su, dove c'è la signora Nina, però più su, proprio all'inizio. Franco. Sì, a K. Sì, ho capito già, dove c'era quello allo slargo, dai, ad angolo. Dimmi, Ricca. Adesso come sto andando, meglio? Adesso sei salito a 3,5, quasi 4, quindi è migliorato già, Che cavolo, che cosa posso fare di più? No, vabbè, conta che anche io la mia antenna è in terra, non è sul tetto la mia antenna, quindi sicuramente sono penalizzato anch'io, No, secondo me sei tu, perché da me arriva bene di caldino. Sì, ma sicuramente neanche io gli arrivo bene, capito? Neanche io gli arriverò forte. Anche se questa antenna va meglio in trasmissione piuttosto che in ricezione. Magari vuole bilanciata anche questa. Però c'è una cosa, che lui c'ha anche una bella antenna, non è, è strano. Ma io sono sotto, cioè sotto di lui. Lui, diciamo, la sua antenna non irradia verso il basso, ma... E quindi, di conseguenza, non mi arriva benissimo. Boh, vabbè. Io lo sento fondo scala, però siamo vicini a casa e non fa testo ciò che sento io. Luca va, Luca si sta imbottendo, avanti Giacomino. Io vado avanti, ma adesso da 9.30 sono salito o no? In che senso? Allora, il mio va al massimo 9.30, di più non va. Vai sul più del 9.30, quindi vai bene, per me, poi non lo so. Ho capito, lo smetto fino a 9.30. Ma cosa hai cambiato adesso, Ricca? Per aumentare un po' hai cambiato apparato. E allora, che cosa hai fatto? Perché da poco fa? Avevo il car basso. Avevi? Il car basso. Il power? Il mic gain, non è quello però, una cosa del genere. È quello che aumenta la potenza, il K stai usando? Sì, il K. Non lo sai con quanti watt stai uscendo adesso? 20 watt. Aspetta, vedi. Io come ti arrivo? Vabbè, magari lo Smith sarà più preciso, vuol dire che segna un po' più del mio. Come ti arrivo io? Santiago 7, radio 5. Tu adesso sei salito con picchi di 5, fino a 4,5-5 di modulazione. Però io non ho smetto che non è sicuramente quello del K, quindi prendilo, questo segnale prendilo con le molle, dai, con le pinze. Buonasera. Buonasera, avanti. Ciao Fra, Santiago 92. Riccardo, tu sei quasi 9:20, ma stai papereggiando. Ciao Gianni. Ciao Tino, mi hai sentito? Buonasera. Ciao Tino, sto papereggiando? Sei dentro, a me la radio sinceramente così non piace comunque. Non so cosa tu stia utilizzando, sembra che stai rimbombando e poi a volte fai una cosa del genere, capito? Mentre invece Franco sta andando bene. Sto usando il parente del tuo? Non proprio. Vabbè, parente cugino, vai. Dai, chiamiamolo così. No, qua ti arrivi forte, arriva 9:20 quasi. Vabbè, anche io sono con 45, dai. Con quanti watt? Siamo circa 30 modulati, poi se ne avrà oltre 60. Cazzo, ecco perché arrivi più forte. Prova, riesci a portarlo alla mia potenza, io sto facendo sui 5 watt, dai. Perché faccio vedere, aspetta, un attimo. Eccolo qua. Vabbè, però va sempre oltre. No, ma così mi dai picchi negativi, però come mai? Da 9,5 scendi a 7. Forse sono troppo. Guarda adesso. No, tende a scendere la lancetta invece che salire, non lo so. Però questo numero Smith me l'ha fatto altre volte con altri segnali. Eppure altra gente mi li vedeva positivi, io li vedevo negativi, non so cosa dire. Ma così sono positivi però. Guarda. Così sono quasi impercettibili perché il segnale è forte. Aspetta, prova a attenuarti, ti attenuo. Un attimo, io sto in tuo Rix, dai ragazzi, vi saluto, che mi sta avendo la pace. Mi sto cazzando i coperti adesso, ma stavo soldando la colonnina e poi la richiudo. Devo trovare solo il grigio dall'affrontare perché quello non l'ho cambiato. Non l'hai trovato il colore? No, tanto male, ti avrei comprato la bombetta. Ma devo trovare la bombetta grigia. Una volta che piazzo il tutto, poi lo farò. Guarda che vengono anche quella cromata, se dovevi fare cromato, puoi fare anche cromato. Sì, lo so. Ma non lo grigio all'interno, non è martoriato, è fatto bene. Diciamo che è sui 120 canali, aumento di watt, ma per adesso non ha doppio modulatore, però va bene. Mi ridà sempre negativi, anche se ti attenuo, non so perché, non so se dipende dal mio smitter, però Aspetta che cambio radio, ma è lì quanto sta arrivando? Adesso sei 9:20. Bene, guarda adesso, Riprova che ti attendo di nuovo. Guarda un pochino, ora. E quando fischi scende la lancetta, da 9 scende a 7. Ma non credo che sia un problema mio, Eppure cioè, altri mi arrivano con picchi positivi, e qualcuno negativo, quindi non so cosa dirti, ma mi è successo altre volte. E questo con lo stesso segnale arriva. Prova. Guarda un po', questo è appena più carico, Qui sei quasi sul più del 30. Aspetti, provo un altro radio. Sempre niente, Prova. Ecco qua, stavo andando senza antenna, stavo andando con non ho comutato, vabbè. Guarda un pochino Fra, questo è un Lincoln con un microfono normale, dinamico. Si sente, spinge un po' meno, però il segnale è sempre buono, leggermente più basso di prima. No, vabbè, era per i picchi, guarda un attimino, hola. Per vedere un po' se da cosa possa dipendere. No, questi vanno avanti, questi sono positivi questi. Ah, ho capito, va bene. Guarda, la frequenza è strana a volte. Comunque ti ho messo anche su un altro apparecchio, anzi aspetta che lo attivo anche l'altro, che sto sballando la lancetta con lo scala. Anche nell'altro erano positivi. Ah, ho capito, ma non per. Ma in che zona ti trovi tu, Fra? Io sono, diciamo, dietro il Sacro Cuore, dietro la chiesa, dai, la parte bassa proprio. Però l'antenna mia è, diciamo, dalla finestra sale verso, verso il tetto, ma non arriva al tetto, a superare il tetto, capito? Quindi è parallela al muro, a una cinquantina di centimetri. Capo, vabbè, no, perché qua con il Lincoln mi arrivi appena più basso, con gli altri arrivi quasi 9, 10. Qua invece con Lincoln, che hanno la stessa antenna, ma dipende sicuramente dall'apparato, sei Santiago, vabbè. Beh, anch'io questi li ho tarati bene o male, mia, diciamo, a occhio e croce, perché questi lo stesso come segnali erano sia il Galaxy che il Samurai, questi Smith sono giusto per... Via, ho capito, va bene, dai, per comodità ho cambiato, cambiato radio. Rimango un codex che mi chiudo questo baracchino, così almeno mi faccio due foto e vedo un po' cosa riesco a fare. Ma questa radio è fortissima, anche troppo. La mia? Troppo forte? Eh sì, è molto forte, siamo vicini forse per quello. Mi vibra la colonia, devo abbassare. Beh, ho abbassato, guarda, così almeno disturba meno. No, non è disturbo, però si vede che è una radio corposa, vai. Ho abbassato, guarda, se va bene ora. Sì, va bene. Riccardo, c'è ancora? Sì, ci sono ancora, sono qui. Ecco, comunque non stai spingendo come le prime volte che, diciamo, che te l'ha piazzato quell'apparato, confermi? Si vede che ce l'hanno con te. Va bene, dai, con Rix da parte mia. Che c'è, il disturbatore? Sì, ma non mi interessa. Sono in con Rix che mi piace la radio. 3K. Allora, abbiamo un portantista, sono ritornati anche loro. Franco. Dimmi, Rica. Ma il problema di questa radio è che questa, come dire, non... con 20 watt. Se non puoi aumentare, lasciala così comunque, dai, se no magari fai danno. Meglio di niente, dai. No, non tocco. Sì, ascolta quello che ti ha detto il tecnico, che lui già ne sa più di noi. Già lo so. Mi stai dicendo, come ti arrivo a Santiago? 7, mi ha detto, 7-8. Sì, 7 con picchi positivi a 8. Aspetta, proviamo a aumentare qualcosa. Aumentato qualcosa? Che cavolo, 9-10. Adesso sto pompando un po', eh. Non voglio attaccare, sennò ho paura di fare danno. Sennò potrei anche attaccare. No, ti ascolto lo stesso. Giusto per provarlo, Chi è? Sera, Barracuda qua. Stazione mobile, zona Predanietta. Ciao Barracuda, ben sentito, forse per la prima volta, dai. Meglio. La mia posizione è fissa è Ossi, ma ecco qua questa niente in mezzo al casino. Poi Riccardino qua lo sento non bene di più, a Ossi è un pochettino più difficoltoso, però qua lo sento benissimo, forse zona favorevole. Capo, adesso te lo mando avanti Riccardo, anche per me Ossi è un po' negativo, perché anch'io sono qua zona bassa, zona Sacro Cuore. Perché è forte e chiaro, adesso qui sono sotto il ponte dove c'è la ferrovia, ora è per quello, a Puglia. Sì, no, arrivi forte. Avanti Riccardo. Come detto, sono stato Antonello, sì, come ha detto Franco, è zona negativa per me Ossi, però da Daniela ti ascolto bene. Sì, Barracuda. Perché? Non sotto il ponte. Sì, ancora ti tiro fuori. Sì. Un traffico incredibile, è veramente impressionante. Come che non sia successo niente, ero lì al centro storico, strapieno di gente, è una cosa incredibile. Bello, poi la giornata che ha invogliato le persone a uscire. Sì, speriamo bene, anche oggi rientrando dal lavoro ho trovato un bel po' di fila. Era un po' di tempo che viaggiavo tranquillo, senza traffico, mi stavo già abituando. Che quella è una stranezza. Beh, no, ma la settimana scorsa non posso né chioso, ma oggi invece è incredibile. Come che non sia successo niente a Sassari? Fredda niente, sarà pieno di macchine che vanno e vengono al centro storico, tantissime persone, molta gioventù, fortunatamente più del 90% con le mascherine, dai. L'importante è quello. Ma speriamo bene, dai. In che condizione stai uscendo? Sei liscio? Che antenna c'hai? Sono un vecchio Midland di quelli a tracolla, Midland 67781, con un microfono palmare amplificato, a batteria dell'Astral, tutta degli anni 70-77. Per adesso ho la mini turbo sopra una piccola base magnetica. E sei liscio, sì, o i watt dell'apparato o ti stai aiutando? La batte dell'apparato, 3,5 watt, tondi tondi. No, va bene, va bene. Riccardo, lo ascolti ancora, sì? Sì, sì, lo ascolto bene. Dipende, dipende. Come ti arriva a te, Ricca? Sono, ho controllato lo smitter, avanti Barracuda. Ma vedi un po', adesso sono una zona un pochettino più chiusa, dove c'è la Peppa al casa. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, qui è un po' più chiuso. Praticamente sì, Santiago 8. Perfetto. No, è un vecchio apparato, ma ne avevo un altro, ma si era bruciato. Ora, per il momento, vedi. Siamo sul relitto, però al primo impatto non funzionava bene, perché questo è senza colonnina interna. Dunque ci aveva nel mare colonnina e microfono tutto insieme. Dunque la modulazione era il massimo, allora gli ho cambiato il capo, microfono. Questo vecchio apparato, 40 canali solamente in AM, dovrebbe essere del 70, dal 70 al 77, una cosa del genere. Questo è il fatto, 3,5 watt, e poi c'è la possibilità anche di diminuirlo, riesce a uscire con 0,5 watt, cioè media e alta potenza, ma niente di più. Sì, anche quella roba che sto usando io è tutta roba datata, Vintage è sempre bello, lei ha voglia. No, ma mi piacerebbe avere in macchina il CRT 2000. Quello è una bella radiolina da metterla in macchina, non costa neanche tanto, trovata a 117 euro. Non è male, è come radio, è carina, modificabile, piccola, un bello schermo LCD, non è male, mi sta piacendo come radio. Qualcuno sta ritornando in frequenza, anche merito di merito, colpa di questa coronavirus. E quello è vero, no, ma io già ci sono bello, ma ci ho sempre stato, vai e vieni, ma non ho mai mollato. No, quello sì. Per fortuna, dai, già fa piacere. Una piccola chiacchierata, fine settimana, dai, che non farei di sempre a stare attaccata alla TV. Poi già ci sono dei bellissimi QSO la sera, e dai, con tanti argomenti. Si può spaziare in tutto, dai, infatti c'è una bella chiacchierata. Avanti Riccardo, poi non c'è nessun altro sul canale, siete solo in due. C'era Gianni, ma gli stava venendo un po' di abbiocco, e poi vediamo, c'era Luca che ogni tanto entra, non so se ci sia adesso. Riccardo ha chiesto un attimo di bianco, Luca ci sei? No, Luca non c'è, quindi siamo solo noi, ci sarà qualche ascoltone magari. Un pochino modulato, così è, da un po'. Anch'io alti e bassi, dai, a volte intanto ascolto tutto, attacco, poi ci sono periodi che non, neanche lo cerco, dipende, dai, però gli strumenti sempre li tengo bene, cerco di accenderli ogni tanto. Io stesso faccio a giro ugualmente, mi è peccato, ma penso che al sacco coro non dovrei avere difficoltà, vabbè che in questo momento mi trovo in una zona un po' impervia del paese, a Ossi, una zona più bassa, e da casa avrei provato a vedere, ma non dovrei avere problemi di arrivare al sacco coro, però ormai già riesco tranquillamente a coprirla tutta a Sassari, a Puglia, non dovrei avere problemi alla fine. E anche io dopo un po' me l'ho risistemato, ho la stazione, qualche pezzettino in più le ho aggiunto, ne ho cambiato l'antenna, la mia definitiva, oh basta, e mi godo quello che ho alla fine. Il problema è che l'antenna mia non è sul tetto, è per quello che non sento bene, non sono aperto da nessuna parte, ho l'antenna sulla finestra, dai. E non c'è la possibilità di posizionarla sul tetto per il momento, così è. Non lo so, ci vorrebbe un pavo, perché i tubi che ci sono delle antenne TV non sono pari da metterci un'antenna come si deve, dai. Ci puoi mettere al massimo una boomerang. Ecco, ho paura che di disturbare, invece qua non ho mai disturbato nessuno, boh. Certo, sicuramente perdo molto, Oh sì, quello chiaramente d'accordo, ma ho detto se sei apparati omologati, poi tranquillamente paghi la tassa, poi tranquillamente si rimane un'antenna, ma o poi c'è la possibilità di metterti tu un palo nuovo, la per i fatti suoi e fai la tua calata tranquillamente. Ma sono anche delle buone antenne a buon prezzo. Io ne ho comprato una, da poco ho voluto cambiare perché meno male ho girato un po' tutte, non sono stato mai contento, non mi duravano mai. Allora ho puntato a questa nuova tecnologia di antenna e per come mi è arrivata l'ho montata, i materiali sono molto più grossi delle vecchie antenne che avevo. Ho preso un dipolo a V invertito, completamente in alluminio e acciaio, una bella antenna, dai, entrando delle ottime soddisfazioni. No, questa l'ho fatta io, è tipo una Game Master, l'ho costruita sopra una canna da pesca, dai, l'ho appiccicata con il nastro. E a voi se metti quella sul testo, a voglia che regge, è leggerissima, dunque che problemi hai di tutti, diciamo, di tappa? Metti quella, è leggera quanto una piuma, non dà nessun problema a nessuno, anzi, manco si vede se ti tiri, ti puoi tranquillamente sfruttare l'altezza. Sì, ma sono 8 metri di antenna, non regge quel palo, quando c'è il vento le spezza tutto. Avanti, Martino. Sì, ciao Barracuda, scusa, qua sto provando una radio. Come sta andando questa cosa? No, male, la radio è molto compressa. Aspetta, Vai da me, qua a casa, guarda, ora. Aspetta che c'è sotto qualcuno, riprova. Vedi un po', sto utilizzando un G5 con un 48 modificato, volevo verificare prima se funzionava bene o meno, dai. Così va bene. E picchi, ora, leggermente gracchiate. Scusate, mi assento un attimino, sono arrivato qua in negozio, guarda una cosettina e sto arrivando. Noi capa Barracuda, siamo qua, dai. Riprova che c'era sempre qualcuno sotto. Capa, dai, anche io un po' di rumori qua casalinghi. Vedi un pochino se sta gracchiando, se vuole regolare il microfono, perché da una radio all'altra cambia, Leggermente negativi, però è pochissimo, è abbastanza fermo come segnale. La radio va bene, rispetto all'inizio che era compressa, proprio quasi incomprensibile. Capo, vabbè, dai, devo cercare i canali di questa radio perché è stata modificata, non so neanche dove cercarli. Allora, l'importante è che vada bene, che volevo verificare anche la colonnina perché gliel'ho rimpiazzata, quindi l'altra era gracchiante, questa invece è perfetta, sente bene. Va bene, dai, ti ringrazio, faccio un po' di manovre. Dai capo, segnale è ottimo. Ho visto le tue antenne l'altro giorno, stavo lavorando dalle parti tue, ho visto il parco antenne. Parco, oddio. Vabbè, da lontano, stavo andando verso Crabulati, dai. Ah, sì. Sono mie. Beh, non ce n'è nessun altro, guarda, Giovanni, sei l'unico, sei tu, ho pensato a te. No, già c'è anche Antonio, però più avanti, più interno, diciamo che in linea d'aria siamo 200 metri circa, che però è più interno lui, quindi magari nella strada principale non lo vedi. Io salendo, diciamo, quando inizi a salire, dai, fai passi in mezzo alle rocce, te ne trovi sulla sinistra, sono quelle? Sì. Comunque già, ecco perché arrivi bene qua, poi sei abbastanza aperto lì, no? A tutto? No, a tutto no, magari a tutto, al vero sono molto negativo. Invece io quando abitavo da ragazzo, abitavo giù verso, non so se sei dove, Villa Gorizia? Sì, conosco. Arrivavo, non benissimo, però arrivavo bene al ghetto, magari perché andando più avanti trovi qualche varco, io ho proprio la collina da superare, quindi va male. Poi cosa? Qui al ghetto arriva in AM quasi zero, qualcuno lo sento in banda laterale. Capo, per te faccio una prova, che sono aiutato, adesso lo spengo, guardami il segnale, quanto incide, ecco qua, vediamo anche quanto ne ho. Allora, dicevo che la radio sta andando in modulazione, fa da 5 a 10, quindi sta spingendo, dai. Sì, si è sceso a 9, però i picchi sono più positivi, sono belli qua, Allora, lasciamo così, dai, va bene. No, voglio provare questa radio perché, sì, diciamo che la sto vendendo, la sto un po' ristrutturando, tenuta un po' così, un po' non benissimo, ecco. Invece guarda con quanto scendo io invece, controlla questa come arrivo. Vabbè, questo sì, quasi sul più, ma qua ti posso controllare con l'altro. Adesso ho sganciato, vedi un po'? Così è il 9-10, prova a agganciare. Così è agganciato. E così sei sul più, però ti do un dettaglio un po' più migliore di questo, aspetta. Riccardo, sei rientrato? Bene, prova. Così è agganciato? 1, 2, 3. Così sono quasi 9-20, Adesso scarica un po', così sono liscio. Non sono molto accordato, però. Da 9 a 9-5. I picchi di modulazione? Da 9-20 a 9-5 modulati, così. Allora, ora sì, 9-5 modulato in positivo, quando attacchi sì, 9-20 fisso, quasi 9-20, 9-18. Perdo i picchi di modulazione, perdo. Sì, aumenti di segnale, però giustamente il finale sta lavorando, quindi se lo metti appena più basso magari arrivi un po' più basso con lo stesso segnale, poi con i picchi positivi. Aspetta che provo, Hai capito, magari fai, che ne so, 9-15, da 9-15 a 9-20 in picchi positivi, se abbassi un po'. Ah, così è in prima marcia. Infatti, così fai 9-15 con picchi a quasi 9-18. Oltre non li passi però. Prova a vedere. Allora, 1, 2, 3, prova. Questo è in prima, No, non parlare. Questo sei 9-10, quando parli vai 9-15. Così è in seconda. Ma cos'è in più? Sì, vai a 9-15 quasi a 9-17. Adesso in terza, quello che sta salendo anche il segnale qua. 9-17 quasi 9-18 e mezzo, ti do. Quarta. Quasi lo stesso. Quinta. Forse la sesta aumenta un po' di più di colpo. Prova, sì, quasi al limite dei 9-20. E questa è l'ultima marcia. Overdrive. 9-20 pieno. 9-20 pieno, però non hai picchi di modulazione potenti. Fai io cosa ti posso dire? La lettura digitale, quindi fai una tacchetta di picco di modulazione, ecco. Vabbè. Sicuramente. Ho portato l'apparecchio, diciamo, per pilotarlo a 4 watt e 5 watt modulate, perché sennò questo usciva con 10 watt, però secondo me lavorava troppo, mi perdeva un po' la radio. Vedi, adesso questo passaggio che hai fatto invece era fisso ai 9-20, non avevi picchi di modulazione. Quindi io ti dico, anziché metterla a sesta, se per dire la metti alla quinta marcia, hai gli stessi watt, però hai un picco di modulazione. Adesso in quinta, aspetta, provo a accordare. Meno di così non scende, qui ho 1,4, 1,3,5 di stazionaria, perché l'antenna è attaccata alla facciata, capito? Sì, è come hai detto io, adesso sei 9,18 con picchi a 9,20, mentre invece in sesta marcia sei sempre 9,20. Quella la lasciamo per i DX, dai. Comunque, qualche watt lo sta tirando fuori lo stesso, anche in quinta. Cos'è? Se non sono discreto. È un 507. Ma dalla RM? Non ho capito. Cos'è? RM Italy, no? No, della ZG. Ah, sì, ho capito. No, io ne ho venduto uno ieri, perché stamattina ho fatto il pacco, del 1300 però era. quanti ne dà quello? Ah, guarda, io sinceramente non mi sono trovato benissimo, perché forse non mi sono trovato benissimo perché l'ho usato con la radio con l'Elonia. Avevo con Lincoln, insomma, non erano le migliori prestazioni, magari usando oggi non l'avrei più venduto, però ormai era imballato e tra la franciccia l'avevo promesso loro. E mi sembra che... intorno a 140 comunque. Aspetta che... D'accordo di nuovo, e sacco tutto che è meglio. Se no lei nel ringrazia. Questo non lo so, sull'apparato c'è in parecchio, ma non penso che... Sì, va bene. Aspetta che attacco l'altro, Così faccio andare anche il 48. Sì, Barracuda, ci sei? Riccardo? Ecco, vedi, così sono con 10 watt. E così invece me ne dà 110, però sono in seconda, Aspetta, ripartiamo da capo, guarda. Allora, andiamo un attimino. No, questo è in prima marcia addirittura, prima. Seconda è già troppo forse. Sì, ti mangia la radio, segnalo aumenta, ma già con la prima attacca sale parecchio, Allora, così sono, prima attacca 100 watt, no ma va oltre, forse non ce la faccio neanche con la scala, guarda, non parlo, però guarda il segnale a 70, cioè prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, ecco qua, sesta marcia, ma non è incompressibile la radio, capisco. Sì, te la mangia completamente. Dovete abbassare i watt dell'apparato, portarlo come ho fatto io. Ho portato a 5 watt modulati, va benissimo. Perdi potenza, però ne guadagna un sacco la radio. Sì, lo so, ma questo è un 48 che non posso abbassare la radio. Questo è così, cioè non posso abbassare i watt, capito? Posso abbassare la radio, ma non mi interessa. No, ma tanto non mi interessa questo, non è mio. Cioè, è mio, ma non mi interessa averlo. Io li ho abbassati dall'interno, anche questo non era regolabile. Ho abbassato il trimmer con watt, l'ho portato a 5, dai, modulati. Ah, cappa. No, adesso per dire, sta dando già in prima marcia 100 watt. Questo è un modello 500, capito? No, il mio invece è più regolare, diciamo, l'avanzamento dei watt. Inizia con, mi sembra, una quarantina, 60, 80, fino ad arrivare, qui dice 300, anche 400, ma non ce li ha, calcola la metà, arriverà a 200, 250 in AM. Sì, anche questo arriva a 250 in AM, giustamente ti mangio la radio perché non posso abbassare, dovrebbe andare bene con... se tu hai una radio che ha almeno anche un watt e mezzo, allora sì, tant'è vero che la utilizzo con l'HR5005, gli do 2 watt, però modulati qui se ne va troppo, quindi non ce la faccio mai andare in sesta posizione, capito? Vado sempre, mi sembra sono in terza o in quarta, non di più, perché aumenta il segnale, ma ti ripeto, ti mangio la radio. Sì, non ha senso avere un segnale alto senza radio, bisogna trovare un compromesso, infatti io l'ho trovato così. Se attacco l'altro esce con 20 watt, devi vedere i watt come aumentano del lineare, però mai rischio di danneggiare anche l'ingresso del lineare. Sì, infatti, no vabbè, questo adesso dai 5 a 8-10 watt modulati, però sono anche trucchi per l'amplificatore, capito? Sì, se ti tieni sotto, senza superare il 5-6 al massimo, va benissimo. Non devi neanche accordare, così è automatico, l'accordatore si accorda in automatico, giusto? No, vabbè, non c'è bisogno di accordare. È come questo, dai. Praticamente un lineare di macchina messo dentro una scatola di metallo con un trasformatore. No, questo è direttamente il lineare di macchina, senza due ventole aggiuntive, giusto per non surriscaldare e basta. No, intendevo dire questo qua, il 507, se lo guardi dentro mi sembra un lineare di macchina. con una ventola e come si chiama? Beh, è un trasformatore che secondo me è anche stato alimentato questo, perché mi accorgo che non è ben alimentato, infatti molti si lamentano su internet, gli hanno messo un trasformatore superiore e migliora parecchio. Cappa, guarda, io ho fatto una prova, non so se conosci il 507 della ZG. Questo che sto usando adesso. Allora, io ho provato sino a stamattina, ce l'avevo, però l'ho riportato in base perché non ho, sinceramente non mi ha soddisfatto, ma non perché non è soddisfatto con, cioè non ha cambiato niente da quello che ho io, nel senso che quello che ho io dà più di quello del 507, quindi ho detto è inutile che mi tengo un barrasone perché è enorme, al confronto di questo che è piccolino, ce lo sbatto nell'armadietto e va bene, capito? Quello è il senso che voglio dirti. Io ho capito. Viene un po' male da manovrare in caso di emergenza, da. No, per quello non c'è niente, ma c'è problema per quello. No, poi avevo anche l'altro, quello, il 1000, il Galaxy 1000, se non mi sbaglio, se non mi ricordo veramente il nome, da un kilowatt a valvole però, e stava andando intorno ai 300-400 watt, non di più, infatti aveva le valvole scariche, e tra l'altro mi tengo queste cose qua quando lo stesso risultato ce l'ho con una cosa più piccola, ecco il mio discorso. Sì, questo è ingombrante, però questo avevo, non era neanche il mio, era della mia metà. Io avevo un Jumbo, un Aristocrat a valvole, e poi mi è rimasto anche uno Speedy a valvole, quello, lo Speedy ancora funziona, il Jumbo invece aveva smesso di funzionare già da allora, e non so neanche che fine abbia fatto. Ah, bene, ma io ne ho venduto uno a Chiodoro Ginito che ha due valvole, lo stesso, un LEM 180 watt, bene, a me solo mi difettava, non è che mi difettava, mi saturava, perché provando con questa radio qua, non avendo la possibilità di abbassare il watt, quindi l'ho parcheggiato, ho provato varie volte, vabbè, tornando indietro magari provandolo con questa radio qua, adesso magari poteva anche andare bene, l'ho venduto. Poi ne ho dato uno a Walter, lo stesso della Primi, stesso due valvole, 200 watt anche quello, 180-200 watt lo stesso, solo che è stato sovralimentato e ha bruciato qualche cosina, quindi stava andando di entrata con 50 watt, qualche visita, è andata male anche quella. Bisogna rimanere sempre in quel range lì, è inutile cercare di tirargli il collo e poi alla fine rimane a piedi. Invece dimmi una cosa, ti intendi di Mantova 1? Ma ne abbiamo ristrutturato una, la mia praticamente, questa che sto utilizzando con Fabrizio Occhi di Gatto, veramente l'ha fatta più lui che io ho dato una mano. Fabrizio Quadrato? No, Occhi di Gatto. Ma perché c'è ancora? Sì, io stamattina ero assieme. Una vita che non lo vedo, pensavo che fosse fuori ma no, non entra in frequenza. A volte adesso è patentato, quindi fa altre linee. Non ricordo un ragazzotto, allora, occhi chiari, non so se biondino o verdi. Sì, già è lui, l'incognita. Via, una vita. Che la sorella si chiamava, non mi ricordo. Guarda, io conosco a lui e al fratello, la sorella l'ho sicuramente anche conosciuta. Sì, l'ho conosciuta, però non so come si chiama, perché ho fatto della lavori a casa sua, dai. Forse mi sto confondendo con un altro, forse con Mascherato. Sono passati dei 30 anni minimo, o 40 forse. E l'altro giorno siccome l'avevo smontata tanti anni fa, l'avevo messa sotto una tettoia lì, e ho visto che si è staccato praticamente, visto da dove parte dove finisce la bobina, c'era, non so se c'è una vite lì, che passa, diciamo, il tubo in resina, e prende sia la bobina che la spirale. Guarda, ci ho sentito poc'anzi, dovevo guardarlo perché io mi avevo fatto anche un disegno di come era, lo sto cercando, però mi devi dare 2 minuti, così ti dico dettagliatamente come va, perché praticamente quel filo che tu vedi che c'è esattamente, praticamente entra dentro la resina, dopo va a uscire tramite un bulloncino che va a vitare nella spirale. Sì, quello lì, ho visto che si è staccato, è venuto fuori tutto da quel foro, capito? Si vede che c'è il filo del rame che praticamente è marcio, quindi quella bobina vorrà o ricostruita o accorciata leggermente di qualche centimetro per fare di mettergli un occhiello. Qualcuno, visto che gli ha messo un occhiello come si dice, in metallo, dai. Dammi un minuto, fra. Sì, sono qua. Ciao Franco. Ehi, carissimo Giulio, come stai? Sto bene, tu? Bene, bene. Da poco ho partorito un altro calcolo, quindi ho passato un altro po' di giorni un po' piegato in due. Questa volta era addirittura ancora più grande, questa volta era 6 mm, questa volta era un centimetro, ancora più grande. Sono una fabbrica di pietre giù. Mamma mia, che cose così fastidiose, per carità, caspita. E vabbè, purtroppo, quando ci sono bisogna curarmi e basta. Cosa hai fatto? L'hanno bombardato? No, sono riuscito con l'aiuto di questi vasodilatatori che mi hanno dato questi medici di Alghero, ormai mi conoscono bene, sono riuscito a partorirlo. Ah, meglio, così almeno hai tolto definitivamente, certo. Sì, ma è così. Purtroppo, ma io devo andare mercoledì per una visita di controllo e ci devo uscire niente di meno a Oristano, perché da Sassari sino a Oristano tutti gli ospedali sono chiusi per questa visita, per cui non è possibile. Allora me l'hanno prenotata, ce l'ho prenotata a Oristano, ti puoi immaginare. Ciao Giulio. Potresti chiedere a Giulio, che è più informato di me, non riesco a trovarlo con l'appoggio, perché qua ci manovra anche mio figlio quando fa i compiti, quindi magari me l'ha fatto sparire. Vabbè, stacco la radio, così inizio, continuo a mettere quello che manca, che sono mezzo aperto a questa radio, e dai, riprendi Giulio. Ok, ciao Tino. Sì, ma è così. Poc'anzi probabilmente stavi confondendo persona, o Franco, tu ti riferibili molto probabilmente a Mario o Chirigatto, che è il figlio di nonna Belarda, questo è un altro, questo è molto più giovane e poi è anche molto più giovane di frequenza, però lui diciamo che si è preso quel nominativo lì, visto considerato che l'altro non c'era più, per cui stavi fraintendendo sicuramente. Va bene, dai, riprendi fra. No, mi ha confermato, quello del tipo biondo con gli occhi verdi, me lo ricordo, è Fabrizio. L'altro invece non me lo ricordo, l'altro che ha nominato, l'altro che di gatto non me lo ricordo. Ah ok, beh allora va bene così. Sì. Non è che stavi guardando l'antenna, Tino, il filo che collega la bobina al contatto della cosa, della spirale? No, sto parlando della mia antenna, della Mantova 1 che ci ho smontata da tanti anni. L'altro giorno l'ho controllata, praticamente dove attacca la spirale, diciamo, che prende anche la bobina, c'è un foro nel vetroresina, ho visto che è venuto fuori tutto, è tutto staccato, tutto ossidato, marcio, dai. Ah, io qui ho capito, e allora bisogna rifare la bobina, perché non è solamente il fatto che sia cortocircuitata, perché quella bobina serve per quello, no? Per cortocircuitare l'antenna, però serve anche per diciamo consolidare la lunghezza fisica dell'antenna. E vabbè, ma già si può ricostruire, se ti ci metti già la fai, non è un problema, utilizzi lo stesso rame, lo stesso diametro e va bene, non è un problema. Fra, io volevo ma dentro, diciamo, dentro il vetroresina c'è qualcos'altro, perché ho visto che il tubo che viene, diciamo, in alluminio è rivettato, non è fascettato, quindi se c'è da intervenire anche all'interno, anche per infilare una vite magari più grande con una rondella, visto che il foro si è un po' rovinato, bisogna togliere quel rivetto, attaccare l'alluminio e intervenire dal vetroresina, dai. Probabilmente sì, se come, come la 94 tubo, sì, c'è la bobina interna, c'è la 94 tubo, ma suppongo che sia uguale. È attaccata a questa bobina, c'è un pezzettino di filo che poi si collega al bolloncino dove si attacca, poi la spirale. E così è fatto la 94 tubo, è così. È un tratto cortissimo di coso che poi è spelato e fa contatto attraverso il bullone che viene fuori dove va attaccato la spirale, niente di più. Praticamente cioè, la bobina che c'è esterna si vede, quella col filo del rame ricoperto di in teflon, non so, comunque in plastica, in PVC, un rame, sembra un cavo elettrico, dai, sembra un cavo normale, ma sarà un rame speciale magari. Quella si vede esternamente, no? Però volevo sapere se dentro il tubo in resina c'è altra roba. No, è la bobina che è infilata dentro il tubo di resina, che poi tramite questo filetto, un pezzo di filo normale elettrico, che è saldato alla bobina, però poi entra dentro il tubo di resina e dal foro dove esce il bullone che poi va in contatto, lì è spellato con la testa stessa del coso del bullone, fa contatto al filo, oppure ci puoi mettere anche un coso, un anello o qualcosa del genere, tanto meglio sarebbe. È così che è fatto, perlomeno se è come la Mantova Turbo è così, ma suppongo di sì, trattandosi di Mantova dovrebbe essere il collegamento uguale come bobina e come contatto. Non lo so, io la parte interna non si vede perché bisogna togliere il rivetto e aprirla e vedere da dentro il tubo cosa è successo, cosa c'è dentro. La parte esterna si vede, questo filo avrà una decina di spine e poi è attaccato al mollone, diciamo, per accordarla, dai. Però dentro non so cosa ci sia, dentro il tubo in vetroresina non so cosa ci sia. E poi un'altra cosa, visto che i radiali, quelli in vetroresina, avevano un cappuccetto in, non so se fosse in ottone, boh, in rame, quello è tutto marcio, è rimasto solo il filo, lì quindi bisogna cappucciarli nuovamente con qualche tubicino, rivestirli di nuovo, in modo che raggiunga il diametro per entrarlo poi nella sede della base, dai, dove inserisci i radiali. Ma quello sì, vabbè, quello è un altro discorso, no? Per quanto riguarda la bobina non c'è niente di particolare, ripeto, questa bobina di alcune spine, una decina appunto come hai detto tu, è infilata dentro il vetroresina, no? Va bene? Però attaccata a quel tubo lì, attaccata a quella bobina lì, c'è un pezzettino di filo che poi fuoriesce sempre attraverso il foro dove esce il bullone che va in contatto con la spirale. Ecco, e lì così è. Allo stesso tempo la bobina è in contatto con la massa, col tubo della parte di sotto dell'antenna. È così. Io l'avevo aperta, l'avevo rifatta, tutta quanta, è tutto a posto, la mia è tutta a posto adesso. I vivetti li avevo bucati con un trappano, li avevo fatti saltare e poi ci avevo messo un pezzo di trafila filettata da parte in parte, quei suoi bulloncini, e dunque va benissimo così. Prima c'erano i rivetti che manteneva la calotta, no? Attaccata alla cosa. E adesso invece io ci ho messo addirittura un bullone praticamente filettato, un bullone senza testa, anche con la testa puoi mettere, dall'altra parte ci metti il bulloncino. E va meglio anche, rimane perfetta veramente. Vabbè, sono i rivetti già le busco, dai. È sempre meglio usare alluminio con alluminio, dicono. Se metti acciaio, meno ne usi, meglio è. Che creano qualche problemino di ossidazione, cose varie. Oh, ci metti un bulloncino di ottone, per cui va bene, no? Non è un problema. Sarebbe bello farlo in alluminio. La trafila da 6 c'è in alluminio. E per i dadi, diciamo, o te li costruisci in alluminio con i filetti, poi con dei pezzi di alluminio, dai, pieno. Non lo so, io ci ho messo, il mio è un pezzo di, è una barra filettata in ottone con due bulloncini con la chiave da 10, uno da una parte e uno dall'altra, perché è passante, no? Perché prima c'erano due velvetti, uno da una parte e uno dall'altra, una volta che saltano quelli, i velvetti non li puoi più mettere, va male. Allora cosa ho fatto io? Ho appena allargato il foro e ci ho messo questa trafila filettata. E va benissimo, da parte in parte, non è un problema. Tanto il tubo di vetrovigine all'interno è vuoto, non c'è niente. Passa solamente questo filo che poi va a contatto col bullone dove ci va la stirale attaccata. Scusate? Sì, prego, avanti. Ehi, guarda questa modulazione, Fra e anche Giulio, dai, che ho cambiato microfono, questo è uno della CTE, sempre un Midland alla 48. Come sta uscendo? Ah, così sembri un giovanotto, no, no, non è che tu sia grande, anziano per dire, però c'ha una voce giovanile. Vabbè, quindi la radio è buona? Sì, è molto diversa, proprio completamente diversa, guarda.